40. Battere d'ali e vento tra le piume. La vista precede la discesa verso la colonna di fumo che presto oscurerà il sole. L'uccello sorvola la radura in fiamme. Tra i campi emergono scheletri che furono capanne, case, magazzini. Una città. Battito d'ali, un altro giro sulle macerie. Cadaveri gonfi per il calore del fuoco, contorti come legni secchi. Su una catasta di corpi, unico superstite, un cane abbaia impazzito al serpente che risale la collina. Il picchio vola in quella direzione per vedere meglio. L'enorme creatura si muove sulla pista di nord-ovest a caccia di una nuova preda. Una scolopendra dalla coda acuminata e luccicante, la schiena irta di aculei. Il picchio distingue uomini, bestie, ruote, metallo. Si posa su un ramo per guardarli sfilare sotto di sé. L'odore che emanano fa paura, gli occhi, tanti quanti le stelle, riflettono ancora i bagliori dell'incendio, arrossati dalla caligine. Alla testa c'è un uomo su un cavallo nero come la notte. Indossa una divisa blu e il suo nome è Distruzione. Nella bisaccia della sella custodisce un libro. Nello sguardo trattiene il futuro. Al fianco porta una spada d'oro per la testa del suo nemico. Battito d'ali. Il picchio vola via spaventato, punta verso ovest. Supera l'armata, sorvola la foresta e la collina. L'aria è di nuovo fresca e pulita. Guarda giù. Fruga il fitto degli alberi lungo il torrente. Una schiera di uomini risale il crinale. Si spostano rapidi per guadagnare la posizione migliore. Il picchio si abbassa. Davanti corre un indiano, divisa a rosso sangue e aperta a mostrare i segni di guerra. Incrociate sul petto ha due grandi pistole. Odio e vendetta. È un guerriero e un capo. In mille lo seguono, un branco di lupi, zanne esposte a digrignare rabbia in faccia alla sorte. Saettano tra gli alberi con un fruscio di frecce scoccate, spariscono e ricompaiono. Spettri del bosco artigliati a un barlume di fortuna. Sono indiani, sono bianchi, combattono insieme da troppo tempo per riuscire a distinguerli. Ancora un colpo d'ali. Il picchio scarta di lato, compie un'ampia virata e torna sopra di loro, solo per vederli disporsi sulle rocce, fucili puntati e cuori in gola, in attesa dell'orizzonte che avanza. Battito d'ali, il volo guadagna quota, sale a sorvolare ciò che rimane del territorio Seneca. Il mostro sbrana un pezzo alla volta, l'incendio arde le fondamenta della lunga casa e sale lungo i muri. L'uccello si spinge ancora più a nord-ovest, velocissimo, fino a intravedere la costa del grande lago e i tozzi bastioni del forte a picco sull'acqua. Passa sul campo di tende e baracche che cinge Fort Niagara in un abbraccio disperato. Vede le sentinelle inglesi gettare gli avanzi del rancio dalla palizzata, per la folla che si accalca là sotto. Bambini dal ventre gonfio di fame sgusciano tra le gambe degli adulti a caccia dei bocconi migliori. La discesa raggiunge una piccola nave appena salpata, uno sforzo per rallentare e posarsi sulla murata. Il picchio guarda la donna avvolta in uno scialle di lana grezza, salda sul castello di prua. Il sole illumina i tratti decisi del volto. I marinai non si avvicinano, né le rivolgono la parola. Lei si volta e allunga la mano ad accarezzare il piumaggio dell'animale, che dopo un attimo spicca di nuovo il volo. Le visioni abbandonarono Molly. Tornò a guardare la distesa piatta che la separava dal domani, i pensieri affilati dall'aria fredda del mattino. Accompagnami nel giardino, amore mio, al centro dell'acqua. Sei vicino, lo sento, su questo lago che riflette anche il nostro cielo, il cielo della valle che non rivedremo. Lo porto con me, sul filo della speranza che regge il destino della nostra gente. Resta così poco, la vita è agli sgoccioli. Dovrà iniziarne un'altra, se è questo che il Padre Celeste ha in serbo per noi. Fa che il vento soffi forte, gonfi le vele. Serve la rapidità del volo, fino a Montreal, a Quebec. Dovranno aiutarci o ricevere la mia maledizione. Peter è morto per combattere i nemici del loro re. La mia famiglia si è lasciata alle spalle terreni, proprietà, fattorie. Il mio popolo ha abbandonato il ventre della nazione. Dovranno concederci quello che ci spetta, non la loro pietà, o perdere l'ultimo briciolo d'onore davanti alle generazioni che verranno. Ci spetta una casa, per accogliere i figli che ancora ci restano. Ci spetta una terra, per piantare i semi che abbiamo salvato dalla distruzione, per far crescere l'erba sopra di noi quando sarà tempo. Ci spetta un nuovo cielo, sgombro dal fumo dei cannoni, per reinterrogare il futuro con la serenità del passato.